Nel castello di La Mota lasciavo mio figlio che cominciava appena a camminare. Mi sforzavo ancora di fissare nella mente la sua immagine, sporgendomi dalla carrozza finché il castello e il gruppo che mi stava salutando non furono che un punto marrone nella pianura. Avevo un peso sul cuore, mi mancava il respiro, ma speravo che il vento del cammino disperdesse la tristezza. Il nome di Laredo era musica per le mie orecchie. Mi asciugai le lacrime e sorrisi a Madame de Halleven, anche lei avvilita come me. Sembrava che fossimo sopravvissute a una guerra. Avevo persino nostalgia della pioggia di Bruxelles e del mio palazzo di Cudamberg. Mi avrebbero riconosciuto i miei figli e io li avrei riconosciuti. Dovevano essere cresciuti molto. Avanzavamo lentamente. Al tramonto l'atmosfera nuvolosa e oscura fu squarciata da lampi bianchi e una burrasca di marzo ci sommerse, come in una mareggiata. Cattivo auspicio. Quando arrivammo a Laredo, il capitano Colendre si presentò per annunciarmi che si prevedevano giorni di maltempo. Non furono giorni. Dovetti aspettare altri 2 mesi. All'inquietudine seguì uno stato di pace. Riconobbi di essere esaurita, confondevo il giorno con la notte, il sonno con la veglia e decisi di rimettermi in salute, di lasciarmi viziare. Le schiave more che avevo portato con me mi iniziarono ai loro segreti, mi facevano massaggi profumati, mi lavavano e mi intrecciavano i capelli, mi decoravano le mani e i piedi e io mi abbandonavo alle loro cure. Riposai, lessi, mi alimentai. Finché non arrivò maggio e il mare di Ponente si calmò. Filippo e il suo seguito ci aspettavano a Blankenberg. All'entrata della rada del porto, l'acqua grigia si acquietò e l'imbarcazione tornò a ondeggiare dolcemente. Era uno di quei giorni luminosi, tanto rari nelle Fiandre. Si sarebbe detto che la nostra nave avesse portato con sé il sole della Spagna. Dalla coperta scorsi la sagoma della città fiamminga. Dai tetti a punta, le facciate triangolari delle case rifinite con scanalature, il profilo familiare della chiesa e dei castelli che si succedevano sulla riva. Figure minute si accalcavano davanti alla fortezza e sul molo dove avremmo attraccato. Ero in preda alla gioia di rivedere Filippo e i miei figli, ma temevo anche che la separazione avesse scavato distanze incolmabili. Se durante la navigazione il mio spirito fluttuava giovane e leggero, ora che si avvicinava la fine del viaggio, affioravano i dubbi, i ricordi dei miei primi anni nelle Fiandre, sola e appartata. A poco si definivano i volti rubicondi dei paggi e dei cortigiani, i vestiti sontuosi, i cavalli adornati e gli stendardi degli Asburgo. La contentezza del mio animo si fiaccò, come se uno spesso strato di fango mi si fosse attaccato addosso. Mi venne in mente che non avrei più parlato in castigliano. Guardai il profilo di Madame de Halleven, i suoi occhi attenti che certamente riconoscevano gli amici e le personalità venute a riceverci. Fino a poche ore prima lei era stata la mia fidata e leale servitrice, ma ora l'aria delle Fiandre la avvolgeva, allontanandola da me. Gli occhi di Filippo mi tesero un ponte. Sorrisi e mi immersi nel suo sguardo e poi nelle sue braccia che mi strinsero, ossequiose, mentre la corte applaudiva e suonavano le trombe. Chiusi gli occhi e aspirai il suo odore. Il suo corpo era il mio focolare, la mia patria. Il mio Filippo era, se si può dire, ancora più bello. Il passaggio del tempo aveva definito i suoi tratti, lo aveva reso maturo e forte. Rispose al mio affetto con discrezione, chiedendomi con gli occhi di aspettare che fossimo soli. La complicità del suo sguardo entrò come una chiave dentro di me e mi risvegliò il desiderio che il tempo aveva assopito. I miei figli erano lì, Eleonora, con i riccioli biondi, vestita come una piccola donna, con un sorriso che le accendeva le guance. Isabella mi conosceva appena e mi guardò con più curiosità che altro, e Carlo, con gorgiera e abito di gala, si nascose da me nel mantello del padre. I suoi occhi sospettosi non riuscivano a persuadersi che io fossi in relazione con la sua infanzia. Fui contenta di rivedere Jean de Berges, Gustave de Chamois, Anna de Viamonte e i servi del palazzo. Dopo i saluti e i baciamano, montammo in carrozza e partimmo per Bruxelles. Durante il viaggio ci fermammo in varie città e in villaggi in cui ci colmarono di omaggi e prepararono banchetti e tornei in mio onore. In quell'atmosfera di festa percepii tuttavia nuove diffidenze. Avrebbero forse dovuto sottomettersi alla Spagna? Sarebbero rimasti privi di sovrani quando ci sarebbe toccato farci carico del trono castigliano. Sola con Filippo mi rammaricai di sentirmi ora più estranea di prima. Deplorai che la nobiltà mi rimproverasse tacitamente di anteporre l'interesse dei regni che avrei ereditato a quello delle Fiandre. Filippo mi guardava con durezza e criticava la facilità con la quale, secondo lui, mi abbandonavo a certe congetture. È la tua immaginazione, mi diceva. Durante il viaggio per Bruxelles quella frase diventò una litania. Nell'alcova percepì in lui una nuova aggressività che inizialmente attribuì al desiderio accumulato durante la nostra separazione e lo ripagai con la sua stessa moneta, ma per la prima volta, per quanto ci amassimo a morsi e ci segnassimo il corpo di lividi, l'amore carnale non ci saziava, anzi, ci lasciava irritabili e di malumore. Nonostante Filippo affermasse il contrario, il fosso che mi separava dalla sua corte e dal suo paese non era mai stato tanto profondo. Dopo i primi giorni nel palazzo di Kudenberg, passato il sollievo del ritorno alla vita che temevo di aver perduto, cominciai a provare la strana sensazione di camminare sopra una distesa di lame interrate. Non appena uscivo da un salone, l'atmosfera cambiava alle mie spalle, le mie parole venivano attentamente vagliate e riferite in modo distorto. Non potevo fidarmi di nessuno e nessuno si fidava di me. La tensione mi stringeva la fronte come una morsa. Al mattino mi svegliavo con le tempie e la mascella irrigidite. Il mal di testa mi faceva perdere la ragione per ore o mi dava la nausea. Preoccupato per la mia salute, l'intendente della mia casa si presentò un giorno con Teodoro di Leiden, un eminente medico di origine turca. Appena quell'uomo comparve nella mia stanza, l'aria si schiarì, come se al posto di un essere umano fosse entrato un mattino di sole. Leiden era un uomo di statura media, delicato e snello, con occhi molto belli e profondi. Portava la barba ben curata, baffi sottili e folti capelli ben tagliati e pettinati. Aveva le mani sottili, dalle unghie lunghe. Portava un cerchio d'oro all'orecchio e parlava con voce ben modulata e suadente. Mi trattò con rispetto, ma senza servilismo. Pareva che solo guardandomi negli occhi riuscisse a capire le mie più intime emozioni. Il suo sguardo era privo di desiderio carnale o di interesse personale. Sentii piuttosto che aveva la rara virtù di dimenticarsi di se stesso. Forse proprio per questo trovai nelle sue visite e nelle sue cure non solo sollievo ai miei dolori, ma anche una certa calma per i vortici di acque burrascose in cui spesso, in modo fulmineo, si dibattevano i miei pensieri. C'erano notti in cui sentivo nel sonno il pianto del mio piccolo Ferdinando. Allora mi svegliavo cercandolo accanto a me e rimanevo insonne a immaginarlo in uno dei castelli dei miei genitori, affidato alle cure di servi solleciti. A Filippo avevo detto di aver affidato volontariamente il piccolo ai miei genitori per non attizzare la discordia raccontandogli le circostanze della mia partenza. Come risultato mi rimproverò di aver abbandonato nostro figlio. Risposi che era stato lui ad abbandonarci. A ogni modo, ribattei, i miei figli più grandi venivano educati da sua sorella Margherita. Almeno Ferdinando avrebbe imparato il castigliano. L'assenza della mia creatura, la freddezza della corte fiamminga, gli sguardi e le risa che mi precedevano o mi seguivano nel palazzo, la passione violenta e punitiva di Filippo, priva di parole dolci, il ricordo dello sguardo duro e offeso di mia madre, la mancanza di Beatrice e della sua lealtà erano sbarre che mi imprigionavano in una solitudine oscura, senza uno spiraglio di luce. Da questa solitudine mi salvava Teodoro e l'infuso che mi preparava con dei fiori lunghi come flauti e con altre erbe aromatiche. Nelle sue pozioni le mie pene si addolcivano e i ricordi piacevoli si facevano visibili e vicini. Rivedevo mio fratello Giovanni, tornavo a giocare con la mia mula Sarita nei cortili dei palazzi, risentivo l'odore del seno della mia nutrice. Il tempo dei miei figli era quello della loro prima infanzia, quando mi guardavano come fossero ancora carne della mia carne, e non come adesso che temevano di darmi il loro amore, prevedendo che me ne sarei andata via di nuovo. Dopo queste fantasticherie, in cui a volte mi immergevo per un giorno intero, mi alzavo per cenare e nei saloni del palazzo ricevevo la corte senza ansie. Quanto avrei desiderato poter essere sempre così, come un uccello che sorvola uno stormo di corvi. Ma i corvi non mi lasciavano in pace e una sera venne a trovarmi Pedro Martire d'Anghiera, per portarmi degli scritti del mio amico, l'umanista Erasmo da Rotterdam, e per sussurrarmi che era ora che sapessi quello che si diceva a corte. Filippo, che fino ad allora aveva soddisfatto con discrezione i suoi bisogni di maschio, con meretrici occasionali e innocue, aveva commesso l'errore di entrare in relazione sentimentale con una delle dame ora al mio servizio. Pedro pensava che questo fosse inammissibile. Se fosse stato vivo Bisleden, una cosa simile non sarebbe successa, mi disse, poiché lui sapeva mettere un freno ai comportamenti irriflessivi di Filippo. Ora ero io che dovevo fissargli un limite per evitare che la sua infedeltà mi facesse perdere completamente il rispetto dei miei sudditi. Spettava a me dimostrare ai fiamminghi che noi spagnoli non tolleravamo le sue deleterie leggerezze. Non avevo mai subito la puntura di uno scorpione, ma ero certa che il suo veleno fosse simile a quello che le sue parole mi iniettarono nel corpo. Sentii che gli occhi mi si riempivano di vetri anziché di lacrime, e la testa mi pulsava come un enorme cuore rinchiuso in una minuscola scatola di legno. Persi la nozione del corpo, mi trasformai in un nodo di rabbia, senza braccia e senza gambe. Per un bel po' non riuscii a muovermi. Mi sembrò finalmente di capire il motivo della strana atmosfera che avevo percepito al mio ritorno. Sapevo chi era la donna di cui parlava Anghiera. Aveva i capelli rossi e la pelle molto bianca, con lentiggini sulle spalle e sul seno, e un volto grazioso a metà tra un folletto e un gatto. Che cosa trovava in lei Filippo che io non avessi, e persino più rotondo e abbondante? Come poteva mio marito espormi allo scherno per una come lei? Ricordai i figli di mio padre che mia madre teneva nell'asilo infantile del palazzo, i mezzi fratelli la cui provenienza era stata uno dei misteri della mia infanzia. Mi fece ribrezzo l'idea di un bambino o di una bambina dai capelli rossi che avesse dei tratti in comune con i miei figli. Pedro Martire partì dopo avermi raccomandato moderazione ed equilibrio. Andai a chiamare Teodoro e a lui non nascosi la mia angoscia. Sapevo che era il risultato della mia assenza. In Spagna avevo intuito che chiedere castità a Filippo era come chiedere al legno di non prendere fuoco a contatto con una fiamma. Avrei desiderato certamente che il suo desiderio fosse solo associato al mio nome, ma agli uomini non bastavano i ricordi per scaldare le notti fredde. Era un'interpretazione saggia, mi disse lui, proprio per questo non dovevo spaventarmi. Teodoro aveva lo sguardo comprensivo e il sorriso distaccato di chi accetta il male come inevitabile. Io andavo su e giù per la stanza, proprio lì ci sedevamo la sera, quella donna, io e le altre dame della corte a cucire, a raccontarci storie, a chiacchierare sottovoce. Mi sembrava di vederla sotto la finestra ogivale, accomodata sui cuscini arancione della panca che seguiva il contorno della torre. Teodoro mi suggerì di comportarmi con la saggezza e la benevolenza a cui aspiravo quando sarei diventata regina. Dovevo parlare con Filippo, mostrarmi comprensiva e dirgli che avrei dimenticato la sua infatuazione se mi avesse promesso di non ricaderci. Lo feci quella sera stessa. Non so dove presi la forza per apparire tanto padrona di me, quando in realtà mi sentivo fluttuare su un pavimento liquido e vedevo le pareti e i mobili sciogliersi come cera. Filippo non negò niente. Aveva lo sguardo fisso e le braccia incrociate dietro la testa. Io ero talmente smarrita e spaventata, tanto piena di parole, che assieme alle mie proteste e senza dargli la possibilità di ribattere, giustificai la sua condotta e gli offrii la riconciliazione. Quando andai a letto, lui non ebbe da fare altro che assentire, lodare la mia intuizione, meravigliarsi di quanto lo conoscessi bene, ribadì che mi amava tanto e quanto poco sopportava la solitudine. Non ci saremmo più separati, disse. Io ero l'unica donna che lui desiderasse. La sua voglia di me era come una malattia che lo faceva ardere dentro. Dopo la confessione, Filippo si sforzò di comportarsi come uno sposo o amante e mi fece dei bei regali. Un breviario Grimaldi delizioso, con la copertina di velluto rosso illustrato dal pittore David. Le miniature erano bellissime. In molte di queste comparivo io. Altre mostravano i blasoni dei personaggi. Quello di Filippo che recita "Chi oserà?" e il mio che risponde "Io oserò". L'avevamo ideato nel momento del nostro matrimonio. Lui e io saremmo stati capaci di confrontarci con il reciproco amore, ma anche con ciò che il destino ci avrebbe dispensato. Il destino forse avrebbe disposto un'altra vita per me, Se avessi dimenticato l'affronto della sua infedeltà come mia madre aveva dimenticato le passioni momentanee di mio padre. Ma io avevo già detto che non avrei voluto essere regina, e in quel momento apprezzavo la libertà che mi dava il non esserlo, pensando che mia madre avesse ancora molti anni da vivere. Teodoro perseverava nei suoi tentativi di tranquillizzarmi con le pozioni aromatiche, ma io non le assaggiavo nemmeno. Non sapevo se Filippo manteneva la promessa di non pensare più alla donna dai capelli rossi. Io però non facevo altro che pensare a lei. Ripresi gli incontri pomeridiani di cucito con le dame della corte solo per vederla e spogliarla con gli occhi. Aveva la pelle molto chiara, coperta da una delicata peluria color pesca che in controluce la circondava di un alone luminoso. Le piaceva indossare abiti marroni e azzurri, i capelli erano veramente belli, folti, ricci, brillavano come rame brunito, spargendosi fino alla cintola. In base a quello che seppi da mormorii e delazioni, era quella chioma di seta che aveva fatto impazzire mio marito. Io non riuscivo a guardarla senza essere presa dalla voglia di strappargliela ciocca per ciocca come uno strumento di tortura che ideai mentre ricamavo appunto croce. Lei evitava il mio sguardo, infilava gli aghi nel suo lavoro e quando credeva che fossi distratta, sorrideva furtivamente alle altre con un'irriverenza che mi inquietava. Non sorriderebbe così. E le dame non la tratterebbero con deferenza, mi dicevo, se si sentisse sconfitta o respinta. Mi bucavo le dita perché volevo interpretare gesti e sguardi, tenerle d'occhio. Un giorno, mentre ascoltavo la loro conversazione sull'interminabile contesa per il dominio su Napoli, con la coda dell'occhio la sorpresi a mostrare con un gesto malizioso qualcosa che aveva nel corpetto. Forse l'eccitazione delle altre sarebbe passata inosservata a chi non fosse stato in guardia come me. Io però persi il lume della ragione, scattai come una molla e balzai dalla sedia. Mi avventai sull'amante di Filippo. Lei indietreggiò, cercava di proteggersi il petto con le mani, ma poco poteva fare contro la mia furia. La gettai a terra, le puntai le ginocchia sulle costole, le lacerai il corpetto e le presi il pezzo di carta là nascosto. La rossa gemeva e si copriva il viso, io cercavo di graffiarla. Madame de Halleven mi prese per le spalle e mi allontanò con l'aiuto di Anna de Viamonte e delle altre. Agitando con forza il messaggio, mi ripresi solo per urlare a tutte di lasciarmi sola. Le buttai fuori, compresa la mia povera Madame de Halleven e le dame spagnole, gridando con tutte le mie forze. Chiusi la porta a chiave, vi appoggiai la schiena e mi lasciai scivolare fino al pavimento e chiusi gli occhi, tentando di calmare l'affanno che mi soffocava. Accostai il biglietto al viso, sulle tracce dell'odore di Filippo, pregando Dio che non fosse vero, che non fosse niente. Per favore, Dio mio, per favore, mi ripetei. E già cominciavo a piangere. Lessi. Madame, è tutto come prima, dopo il vespro nella biblioteca, vostro F. Chi oserà? Io oserò. La mia mente era impegnata a ripetere senza pausa il nostro motto, non riuscivo a pensare che a quelle parole. Mi rialzai, presi dal cestino del cucito tre forbici di acciaio di Toledo e dei nastri colorati e li posai sul tavolo. Andai in camera, mi sciacquai il viso, mi accomodai i capelli. Anch'io ero bella. Avevo le guance arrossate. Bevvi d'un fiato diverse coppe di vino. Aspettai il tempo necessario, tolsi il chiavistello della porta, ordinai alle mie guardie di chiamare immediatamente le dame della mia corte, tutte senza eccezione. Entrarono una a testa bassa. La rossa in mezzo alle altre. Stavano l'una accanto all'altra e si riunirono vicino al tavolo al centro della stanza dove le aspettavo. Madame de Halleven mi si avvicinò con la chiara intenzione di parlarmi senza che le altre sentissero, ma la fermai con un gesto. Le mie compatriote mi guardavano, piuttosto curiose e intimorite, ma anche solidali. Sorrisi loro con assoluta calma. Ordinai che facessero sedere la rossa sulla sedia accostata al tavolo. Si guardarono. Ripetei l'ordine alzando la voce. La rossa cominciò a piangere. Madame de Halleven intervenne. Che le farete, signora? Ma la fecero sedere. Mi avvicinai, le legai le mani dietro la schiena con i nastri colorati. Le donne trattenevano il respiro, rapite, come se stessero per assistere a un'esecuzione e non potessero, non volessero fare niente per impedirla. Lentamente, deliberatamente, le sciolsi i capelli e li accarezzai. Erano morbidi, setosi. Pensai alle mani di Filippo. Poi presi le forbici e adagio cominciai a tagliarli, attratta dal cigolio delle forbici che sovrastava le esclamazioni e il pianto della mia vittima. Non riuscivo a fermarmi. Tagliai e tagliai sempre più in fretta. Chi oserà? Io oserò! E le ciocche cadevano. Chi oserà? Io oserò! E il suono delle forbici e i singhiozzi finché non vidi il cranio trasparente e mi allontanai per vederla trasformata in un brutto ragazzo con il volto arrossato e il naso gonfio che gocciolava muco sulla gonna. Poi mi sedetti con le forbici in grembo. Madame de Halevin slegò la vittima e uscirono tutte di corsa. Chi oserà? Io oserò! Raccolsi i riccioli da terra e li sparsi sul cuscino di Filippo. Quando Filippo arrivò ero calma, vuota. Entrò come se cavalcasse un destriero furioso e si preparasse ad abbattere un contendente in un torneo. Mi afferrò per i capelli e cominciò a prendermi a schiaffi, a gridare, a insultarmi. Non avrebbe mai più fatto l'amore con me. Mi odiava. Come avevo osato? Avevano ragione quelli che mi accusavano di essere pazza. La rossa, disse il suo nome che ora non ricordo, non meritava che amore. L'amore che lui le dava e avrebbe continuato a darle, non importava quanto io facessi per impedirglielo. Chi oserà? Io oserò! Gridai a mia volta. Ah sì? Chiese e alzò di nuovo la mano. Mi scostai questa volta, ma il colpo mi raggiunse lo stesso e persi l'equilibrio. Caddi. Lui mi rialzò, strappandomi il vestito. Pensai che fosse meglio non reagire. Rimasi immobile in mezzo alla stanza, le mani incrociate e la testa china. La mia calma lo rese ancora più furioso. Mi scosse per le spalle, ma io rimasi inerte, chiusa in uno spazio che nemmeno la sua violenza avrebbe potuto penetrare. Forse lo capì, perché smise di attaccarmi e uscì sbattendo la porta. Quando tentai di uscire a mia volta, mi accorsi che la porta era sbarrata dall'esterno. Passai la notte a bussare, a lanciarvi contro tutto ciò che potesse rompersi rumorosamente. Filippo avrebbe sentito. Quando non dormiva con me, stava nella camera proprio sotto la mia. Volevo che il rumore gli trasmettesse la mia collera, la misura della mia ribellione e della mia inquietudine. Presa dall'ira, dolorante per le percosse, non riuscii a dormire. Il giorno dopo Filippo mi mandò Teodoro dei Leiden. Non mi ero ancora ripresa dall'accaduto e camminavo nel disastro frutto della mia rabbia. Quando Teodoro entrò, mi lasciai cadere su una sedia, sollevata che fosse lui. Non potevo accettare senza protestare che Filippo mi rinchiudesse, gli spiegai. Per questo non l'avevo fatto dormire. Teodoro mi guardava raccogliendo frammenti di vasi e di specchi e posandoli sul tavolo rotondo in un angolo della stanza, come se pensasse di ricomporli in un mosaico. Quando smisi di parlare, mi sorrise dolcemente e si sedette accanto a me. Aveva la mania di giocare con gli anelli che aveva al dito mentre rifletteva. Ribellarsi, affrontare la situazione, non era una cosa comune per le donne ai miei tempi. Teodoro de Leiden mi consigliò tattiche più sottili. Non si combatte il desiderio con la rabbia, mi disse, ma con altro desiderio. Filippo non era indifferente al mio fascino. Invece di dargli altre scuse per giustificare le sue infedeltà agli occhi degli altri, io avevo la possibilità, diceva Teodoro, di brandire l'arma del mio potere più intimo. Teodoro pensava che lui non avrebbe opposto resistenze se io avessi gettato le reti della seduzione, se lo avessi attratto con profumi, cancellando con il mio amore la breccia scavata dalla distanza. E quale migliore vendetta che dimostrare a tutti che Filippo continuava ad amarmi. Grazie a Teodoro ricomparvero le schiave more che mi avevano accompagnata nel viaggio da Laredo, le stesse che mi avevano consolata nei 2 mesi in cui avevo atteso che cessassero le burrasche. Le more avevano dimestichezza con i filtri d'amore e gli incantesimi. Loro non mi avrebbero tradita e non avrebbero riso di me. Scelsi Fatima perché guidasse le altre. Nata ad Algesira, si era alta, muscolosa, con mani forti e poche inibizioni nel dire ciò che pensava. Mi piaceva il suo accento andaluso e mi rincuorava che agisse come chi ha vissuto molto e ha visto tanto da non aver paura di niente. Filippo non l'avrebbe notata perché il suo fisico era piuttosto mascolino. Apparentemente in contrasto con la sua personalità, Fatima svolgeva il suo compito con grande delicatezza, la stessa che usava quando mi lavava i capelli o mi massaggiava con tiepidi oli che profumavano di arance o limoni. Fece portare nella mia stanza una tinozza di rame, in cui rimanevo immersa a lungo. La mia pelle diventava sempre più morbida e setosa, ma dentro era una landa arida e piena di crepe. Sono secca, secca, pensavo, e quando chiudevo gli occhi vedevo la pelle avvizzita di mia madre, prostrata dalle febbre e da una sete che la tormentava giorno e notte, come Beatrice scriveva nelle sue lettere. La regina sta molto male, devi prepararti, devi pensare che presto erediterai questi regni. A occhi chiusi cercavo di immaginarmi regina non solo di Castiglia e di Aragona, ma anche delle nuove terre scoperte dall'ammiraglio Cristoforo Colombo. Ricordavo quando si era presentato davanti ai miei genitori al ritorno dal suo primo viaggio. Era ritornato in Spagna il 4 gennaio 1493, ma era arrivato a Barcellona in aprile. Nella piazza di fronte alla chiesa di Santa Chiara era venuto avanti fino al baldacchino dorato in cui ci trovavamo. Alcuni uomini del suo gruppo portavano gabbie con uccelli multicolori che sembravano più fiori che animali. Ricordavo il vassoio con oggetti d'oro a forma di scimmia e di lucertola che aveva offerto a mio padre. L'odore delle foglie di tabacco, i grani di cacao mai visti prima, con i quali ora si prepara il cioccolato. Forse durante il mio regno avrei organizzato una spedizione perché Filippo e io potessimo vedere le acque trasparenti del mare che avevano chiamato Caribe e le foreste piene di animali sconosciuti. Mi affascinava l'idea di quelle terre circondate dall'acqua e abitate da gente che aveva l'innocenza da noi ormai perduta. Gli scenari descritti da chi era stato nelle Indie avevano dato ali alla mia fantasia e ai miei sogni. I bagni, i profumi e le mie attenzioni sortirono il loro effetto. Filippo e io ci riconciliammo. La passione che c'era tra di noi prima del malaugurato anno che avevo passato in Spagna era il ricordo a cui mi aggrappavo a occhi chiusi quando ci abbracciavamo. Spesso però sentivo che ora non eravamo soli nel letto. Altri corpi, come fantasmi, scivolavano tra i guanciali. Riccioli ramati, volti femminili apparivano come visioni tra i tendaggi. Fiutavo odori estranei e immaginavo che le mani di Filippo cercassero nel mio seno altre forme e che il suo piacere si alimentasse dell'evocazione di notti in cui io non c'ero. Nell'ansimare dei nostri corpi, senza che lui se ne rendesse conto, scrutavo a fondo il suo volto e percepivo ricordi celati tra le sue palpebre chiuse. In quei momenti desideravo ardentemente affondargli le dita negli occhi per estirpare alla radice quelle visioni. Fingevo di gemere per il piacere, ma la gelosia mi consumava e i miei lamenti erano di rabbia e di impotenza. Il mio amore si trasformò in un bisogno angosciante di possederlo, di assicurarmi che a qualsiasi prezzo il mio amato fosse solo mio. Che farò, mio Dio? Che farò con gli affanni di questo amore che mi assediano implacabili? Sospetto costantemente di Filippo. Voglio conservare la mia dignità, ma non faccio altro che assillarlo con domande che mi sviliscono i suoi occhi. Ma ho bisogno di sapere. Niente mi appare tanto ripugnante e doloroso che essere una moglie tradita. Quello che mi spinge a nasconderlo non è l'amore che provo per lui, ma l'orgoglio. Non posso permettergli di tradirmi, e ancora meno di farlo con successo. Dal mio ritorno mi gira nella mente la strana idea che Filippo abbia un doppio. Stento a credere che l'uomo che amo è quello che abusa della sua autorità per tenermi all'oscuro e prendersi crudelmente gioco di me, presentandomi al mondo come una squilibrata, siano la stessa persona. Quando il falso Filippo si avvicina, la mia pelle freme di paura, mi spaventa la durezza delle sue parole e dei suoi occhi, che se potessero mi trapasserebbero impunemente il cuore. Mi appassionai alle abluzioni di Fatima, tanto che convinsi Filippo a lasciarsi anche lui profumare e ungere con gli oli. Di lì a poco, però, il mio piacere cominciò a dargli fastidio. Lo ingelosiva che io trovassi tanta pace e dolcezza nelle mani delle mie schiave. La realtà era che non mi davano solo il piacere dei massaggi e dei profumi. Quelle donne avevano mani di seta e conoscevano tutti i segreti del nostro corpo. Molte di loro erano tanto belle che vederle nude e sentire i loro seni sulla testa quando mi lavavano i capelli eccitava tutti i demoni della tentazione. Loro non si accontentavano di passarmi gli oli sul corpo o di sfregarmi con lo zucchero per eliminare le asperità, me lo toglievano da dosso con le loro lingue. Quelle schiave, dedicandosi tutte insieme al mio corpo, mi facevano fluttuare in piaceri prolungati e fantastici che poi raccontavo a Filippo. Quando dormivamo insieme. Lui si eccitava sentendo descrivere quello che gli raccontavo come un gioco inoffensivo per alimentare la nostra passione era anche la mia segreta vendetta, la mia maniera di dimostrargli che anche io non dipendevo soltanto dalle sue carezze. Riuscii a ingelosirlo, ma fu una vittoria di Pirro. Cominciò a rimproverarmi, a dirmi che quella era una pratica perversa e contro natura. Non dovevo continuare e lui non me lo avrebbe permesso. Teodoro e le mie schiave dovevano lasciare il palazzo. Siccome mi rifiutai di mandarle via, e soprattutto di mandare via Teodoro, Filippo mandò Pedro de Rada ad avvertirmi che non sarebbe ritornato a stare con me finché loro non se ne andavano, o loro o lui. Dovevo scegliere. Per tutta risposta feci mandare via il suo messaggero dal mio appartamento. Come rappresaglia, Filippo ordinò di sbarrarmi le porte. Mesi dopo seppi che siccome i miei genitori si erano preoccupati per le voci che gli arrivavano sui maltrattamenti di cui ero oggetto, Filippo aveva ordinato a Martin de Moscica di registrare in un fascicolo tutto quello che io facevo o non facevo. Tra le altre cose, Moscica annotò come se si trattasse di un reato che io facevo il bagno parecchie volte al giorno, mi lavavo i capelli spesso e le mie stanze emanavano un profumo di muschio tanto intenso da togliere il respiro. Alla fine Filippo mandò questa relazione ai miei genitori, pensando di dargli una prova del fatto che stavo perdendo non solo il senno, ma anche il senso del bene e del male. Accuso l'ombra di Filippo di aver allontanato da me, senza alcun riguardo, Teodoro e 12 delle mie serve, tra cui le mie schiave more, e di non avermi nemmeno permesso di tenere con me Madame de Halleven, imponendomi di sostituirla con una dama amica dei francesi che mi odia, Alénor de Poitiers, Viscontessa de Furnes. Inoltre ha fatto partire per la Spagna il mio confessore e si rifiuta di darmi il denaro per le mie spese, con la scusa di non avere ricevuto le rendite che gli spettavano come principe delle Asturie. Forse io sono davvero pazza, ma questo uomo e Filippo non possono essere la stessa persona. Nessuno più di me si rende conto dell'inganno perché nessuno come me conosce il vero Filippo. Per questo ho scelto di rimanere a letto e non sarà Alénor de Poitiers che mi farà mangiare o vestirmi. Se non posso avere le mie serve, nessuno mi metterà una mano addosso. Morirò di fame se questa è l'unica risorsa di cui dispongo, perché è Filippo che conosco ritorni a occuparsi della nostra casa. Sommata all'incapacità di nascondere le mie sofferenze, la mia gelosia mi trasformava in un cane macilento su cui andavano a cacciarsi tutte le pulci. Io non avevo il dono della doppiezza tanto richiesto alle donne della mia epoca. Per i miei contemporanei screditarmi era più facile che comprendermi, non solo perché la prima cosa era più semplice, ma anche perché screditarmi assicurava un utile politico. Le metamorfosi di Filippo mi facevano dubitare della realtà, diffidare del mio senno. E se a questo sommiamo l'inquietudine che cresceva in me, l'impegno dei miei genitori per separarmi da mio marito, l'infedeltà di lui e l'isolamento al quale mi forzò, niente di strano, se io pensavo che Filippo avesse un doppio. Lui voleva separarmi da tutto ciò in cui io potessi riconoscermi, farmi pensare di essere pazza, era parte della macchinazione. Che mi credessero pazza serviva sia a Filippo sia a Ferdinando per giustificare le loro ambizioni. Il 23 novembre 1504, 3 giorni prima che morisse mia madre, la regina Isabella, e sicuramente con il sostegno della testimonianza di Martin de Moscica che Filippo gli aveva fatto arrivare, Ferdinando, mio padre, mise in atto un'altra delle sue mosse. Convinse mia madre ad aggiungere una clausola al testamento. Inutile dire che la moribonda non aveva più la volontà o la forza per opporsi. Questa clausola stabiliva che nel caso in cui io non fossi stata presente in Castiglia o non fossi stata in grado di governare, il re Ferdinando, mio padre, avrebbe assunto la reggenza. Usando gli stessi mezzi che erano serviti a mio marito per motivare che quando fosse arrivato a regnare gli si concedesse più potere che a me. Mio padre diede scacco matto a mio marito. Quando ne vennero a conoscenza Filippo e soprattutto l'ambasciatore spagnolo Gutiérrez Gómez de Fuensalida si resero conto della trappola nella quale erano caduti. Gómez de Fuensalida era passato dalla parte di chi supponeva sarebbe stato re alla morte della regina. Ora era consigliere di fiducia di Filippo al posto di François de Buisledin. Costretti a cambiare strategia per non offrire l'occasione a Ferdinando di spogliare Filippo del potere, lui e il consigliere decisero allora di rivendicare la sanità mentale mia e di ridimensionare la diceria che si erano incaricati prima di alimentare. Ormai però era tardi. Alla morte della regina Isabella, mia madre, Ferdinando convocò le cortesi di Castiglia nel gennaio del 1505 e lesse loro la relazione di Martin de Moscica. Immediatamente le cortesi affidarono la reggenza. Filippo capì che solo portandomi in Spagna e presentandomi come regina in possesso delle mie facoltà mentali, sarebbe riuscito a opporsi realmente a mio padre. Il 26 novembre del 1504 morì mia madre, ma Filippo ed io non arrivammo in Spagna che il 27 aprile del 1506. Filippo non poté partire fino a quando non si placò una ribellione dei suoi sudditi a Gelder e io da parte mia ero di nuovo incinta e diede alla luce la quinta figlia, Maria, il 15 settembre del 1505.